Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati da Il Sargante e il Traghettatore. Questa è la puntata di Ferry Boat del weekend del 14 maggio. Cominciamo subito col segnalarvi che domani a Perugia ci sono i Green Days, che è l'occasione importante di confronto sui temi della green economy, con un incontro fra il mondo imprenditoriale, il terzo settore e le istituzioni. Oggi e domani anche sono le giornate della campagna Abbiamo riso per una cosa seria. È un'iniziativa della FOCSIV, che è la più grande federazione italiana di organismi di volontariato internazionale. Sono più di 800 le piazze italiane che saranno coinvolte in questa iniziativa a sostegno del diritto al cibo nel sud del mondo. Sergio Marelli, segretario generale di FOCSIV, ci spiega cosa succederà in queste 800 piazze. Sì, due giornate nei quali i nostri organismi federati distribuiranno riso, che ricordo essere l'alimento di base di tutte le diete al mondo, per raccogliere dei fondi e finanziare progetti nei paesi dell'Africa, Asia e America Latina a sostegno dei piccoli agricoltori e per promuovere l'accesso e il diritto al cibo. È un riso che proviene dall'Italia, cosiddetto a chilometro zero, perché noi crediamo che sostenere la piccola agricoltura locale sia il mezzo e la strada più significativa per consentire all'agricoltura a livello mondiale di riprendersi dalla crisi in cui versa. Una crisi anche dettata dalle forti speculazioni finanziarie che hanno negli ultimi mesi rimbalzato i prezzi ai massimi storici, impedendo ulteriormente alla popolazione mondiale di accedere all'acquisto delle derrate alimentari. È per tutto questo che Abbiamo riso per una cosa seria vuole essere un'iniziativa sì di raccolta fondi, ma anche un'iniziativa per sensibilizzare i cittadini italiani all'importanza dell'agricoltura, all'importanza di cooperare con i paesi del sud del mondo, perché garantire il cibo, garantire questo diritto fondamentale riconosciuto dalle Nazioni Unite, vuole dire aiutarli a uscire dalla povertà e dalla miseria, ma anche garantire un futuro sicuro, perché senza mangiare, senza diritto al cibo, l'insicurezza, l'instabilità, il terrorismo e il fondamentalismo colpiranno anche il futuro dell'Italia e delle nostre nazioni ricche. Per questo Abbiamo riso con una cosa seria vuole essere un'iniziativa che raccoglie fondi, sensibilizza e contribuisce a uno sviluppo più giusto che FOCSIV promuove per tutti i paesi in via di sviluppo. Bellissimo, un'iniziativa che ha tante aspetti e tante direzioni diverse. Vogliamo dare il nostro contributo, grazie segretario generale, anche mandiamo in onda lo spot che caratterizzerà queste due giornate di CONSIV. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Articolo 25. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche, ai servizi sociali necessari, eccetera, eccetera. Il 14 e 15 maggio, nelle principali piazze italiane, FOCSIV promuove la campagna Abbiamo riso per una cosa seria, per sostenere il diritto al cibo. Abbiamo riso per una cosa seria. C'è un'altra iniziativa che caratterizzerà questo weekend, stiamo parlando sempre di piazza, è della Fondazione Aiutare i Bambini. Ci sarà domani un asilo nido per ogni bambino, è un'iniziativa dedicata all'avvio di nuove strutture per la prima infanzia in Italia. Sono molti i testimonial di questa iniziativa mediatica, Lella Costa, Benedetta Parodi, ma anche Max Pisu e i comici di Zelig, Katia e Angelo. Andiamo con il Festival delle Abilità Differenti. Le città di Carpi, Correggio, Modena e Bologna ospitano la 13ª edizione del Festival Internazionale di queste Abilità Differenti, che è una manifestazione dedicata alla disabilità per promuovere l'integrazione. Grazie per averci seguito, questo è l'appuntamento di Ferry Boat del 14 maggio. Vi ricordo che ferryboat@radio24.it è l'indirizzo a cui potete scrivere per segnalare le vostre notizie. Grazie ad Anita Panizzi in redazione e a Mauro De Angeli in regia.